Friuli nel mondo. Messaggio della scuola ai lontani. 22esima trasmissione dedicata agli emigrati. Sotto il tricolore che palpita il sole di maggio, gli alunni della scuola elementare Dante Alighieri di Udine salutano con l'inno della patria risorta tutti i fratelli lontani. Nelle loro voci l'anima di tutti i fanciulli del Friuli, educati al culto delle tradizioni, all'attaccamento per il focolare. Ne è simpatica conferma la proposta che un gruppo di essi ha avanzato all'ente Friuli nel mondo. Si continua ad ignorare questa terra di confine, redenta dal sacrificio di tanti secoli, benedetta dal lavoro dei nostri padri, vibrante di amor patrio nell'eroismo dei suoi martiri, colorita di tante iridescenze nel suo folklore. Sembrerà esagerata la proposta di saperlo meglio conosciuta in Italia e all'estero, dove gli emigranti, sparsi un po' dovunque, sentono il bisogno di sentirsi italiani? Proposta subito accolta. In mezzo a questi ragazzi, ecco il microfono delle trasmissioni destinate all'estero. La parola è ancora ad uno di essi. Fra i 29 miei condiscepoli, vi sono parenti di friulani emigrati in Australia, in Argentina, nel Venezuela, negli Stati Uniti, nel Canada, nel Sudafrica e in vari stati d'Europa. A nome della classe quinta A, Scuola Dante Alighieri di Udine, e del nostro bravo maestro, invio tramite l'ente Friuli nel mondo un saluto affettuoso a tutti i nostri parenti emigrati. Lieto che la radiotelevisione italiana abbia gentilmente esaudito il nostro desiderio. Ed ora per i lontani, rondini che valicano i mari per ritornare al tetto natio, il canto della primavera, della Viarte, con il benvenuto alla rondine, alla Cisile, riapparsa un mattino d'aprile presso il vecchio nido. Dopo il sacerdote Giambattista Gallerio, autore de La Viarte, un altro cantore della primavera, Pietro Zorutti, al cui nome si intitola la scuola frequentata dalla bimba che ora dirà La Plovisine di Pietro Zorutti. Plovisine, minudine, liserine, tu ven siu cusi cidine, senza tons e senza lams, e tu das di degli ai ciam. Plovisine, fine, fine, lizerine, bagne, bagno un fregrin, lor del puar contadin. Senza te non mene nuie, bagne, bagne che la tuie, bagne, bagne che il radric, fin cu moti nius astic. Bagne lor del puarom, bagne il ciam del galantom. Plovisine benedette, vin bisogne d'alto umor, palto umor la chiave tete, la natura va in amor. Nella scuola friulana presente sempre la regione nei suoi aspetti geografici, storici, artistici, turistici. Il Friuli, radio conversazione di Rina Saccardo. Ricordo che a Lignano tu parli sempre di Lignano, come se non fosse altra spiaggia nel mondo. Lignano è bellissimo. Ci sarà una ragione, mi pare, se è chiamata sabbia d'oro. Ma è proprio d'oro la sabbia. Sciocchina! Ha 6 anni e non ha mai visto il mare. È detta d'oro perché bionda, fine e pulita. Io però preferisco Grado. Grado è il parco delle rose. E Lignano ha la pineta della quale si diffonde un odore di resina. Alle spalle di Grado, Aquileia con la sua basilica gloriosa, col cimitero degli eroi, con i cipressi, con gli scavi romani. Per non dare ragione all'uno o all'altro, ecco, io preferisco la montagna. Ho trascorso l'estate a Tarvisio, sono salita al santuario di Monte Lussari, sono stato ai laghi di Cusina. Io conosco il lago di San Daniele. Piccolo come un fazzoletto. Un fazzoletto. Prova un po' a mettertelo in testa. A Frattis, al tramonto, le 5 punte del Gliris sembrano un altare sfavillante. Quanti ciclamini, mirtilli, lamponi nel bosco vicino alla colonia. A me piacciono le caramelle che hanno sapore del lampone. Talvolta udivamo i campani delle mucche al pascolo. Quanti ranuncoli gialli, quante genzane azzurre nei prati. Anche stelle alpine. Per coglierle bisogna salire in alto, tra le rocce. Io le colsi col babbo durante un'escursione da Timau al Palgrande. Crescevano appunto tra le rocce, tra gli screti, come dice il canto dell'alpino morto. Colta la prima, guardai intorno. Mi pareva di udire dalle cime il canto sommesso.